Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Il sergente e il traghettatore, buongiorno. Dunque, oggi vi annunciamo che si corre la Milano City Marathon. Sono quasi 43 chilometri da Rofiera a Piazza Castello, che è organizzata anche insieme all'Ente Protezione degli Animali. Ve lo segnaliamo, l'Ente Protezione degli Animali, perché è una corsa un po' originale che coinvolge soggetti anche bizzarri. Per esempio, fra i vari team c'è quello dei rondaggi, che sono tre ragazze e un ragazzo che sono posti l'obiettivo di raccogliere 1000 euro per lo svezzamento di 20 gattine. Lo fanno coinvolgendo due band, due complessi musicali che hanno scritto un brano utilizzato per l'occasione, che è diventata un po' la colonna sonora del gruppo. Parliamo adesso di educazione economica nelle scuole. Si è appena conclusa una competizione che ha coinvolto un centinaio di ragazzi. La competizione è organizzata da Junior Achievement Italia. Abbiamo con noi il direttore generale Miriam Cresta. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Chi erano i ragazzi e che competizione è? I ragazzi erano studenti delle scuole superiori degli ultimi anni, tra i 17 e i 19 anni, i quali hanno risposto attraverso un'application su Facebook a un quiz di tipo finanziario e di economia, e i 100 che hanno risposto nel modo migliore, dopo anche un'autocandidatura dei loro docenti, sono stati accolti all'interno di questo camp, che è una manifestazione di 24 ore organizzata insieme a un'azienda, City, attraverso la Foundation. La cosa direi più importante del camp è che un'azienda chieda dei 17enni e dei 19enni di aiutarla a rispondere a un task aziendale, quindi utilizzandoli come una sorta di consulenti. Ecco, sono stati questi ragazzi, hanno vissuto insieme per 24 ore, giorno e notte, intendete dire questo? Ci piacerebbe molto arrivare a fare la competizione con queste caratteristiche, così è il modello, diciamo, anglosassone e quello nord europeo. In questo momento in Italia siamo riusciti a fare questa cosa solo in questa occasione, grazie a un budget particolarmente significativo di cui avevamo a disposizione, che ci ha consentito di accogliere i ragazzi tutti all'interno di un hotel. Solitamente quando si lavora all'interno delle scuole, come sa, le scuole italiane non sono attrezzate per poter soddisfare a questo tipo di esigenza, ma sarebbe bello raggiungere assolutamente questo obiettivo. Un'ultima battuta, giusto per concludere, direttore: Junior Achievement si occupa di educazione economica anche per studenti delle scuole elementari, per i bambini di fatto? Certo, sì, l'ipotesi, l'idea è quella che l'economia, così come è entrata nella nostra vita di tutti i giorni in modo direi dirompente, soprattutto negli ultimi anni, è corretto quindi che sempre più si sia in grado anche di leggerla e di comprenderla, quindi perché non iniziare già dai bambini più piccoli, naturalmente adeguando il linguaggio. Esatto, il linguaggio, certamente, le informazioni e i contenuti. Molto bene, grazie direttore, buon lavoro. A voi, arrivederci. Continuiamo con una notizia che riguarda la grande distribuzione e un'associazione, i Comuni Virtuosi, fra le tante c'è anche il WWF Italia Nostra, che ha lanciato ancora una volta anche quest'anno Porta la Sport. È una settimana dedicata al non usare la busta di plastica riciclabile o meno che sia nella grande distribuzione. Fino al 22 aprile questo è l'invito a cui hanno aderito 100 comuni e 14 province. Chiudiamo segnalandovi una importante occasione di solidarietà, ma anche di conoscenza del mondo della cultura milanese, in questo caso proprio nella occasione di questa settimana nazionale della cultura. L'Istituto dei Ceichi di Milano, una realtà, un patrimonio storico importantissimo per la città meneghina, apre la sua sede e mette a disposizione il suo incredibile patrimonio storico e artistico. Andare a visitarlo è anche un'occasione importante di conoscere strumenti musicali, statue, dipinti, libri e sezioni museali di vario genere, ma anche di dare un contributo importante di solidarietà. Questo è tutto per oggi, grazie a Anita Panizza e Gian Gabriele Lombardo in redazione e a Roberto Scaltritti in regia. A risentirci.